Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Come annunciato nel nostro secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, parliamo di bollo auto, un tema che già da alcuni anni, da quando abbiamo la collaborazione aperta con l'Adico, ogni tanto ritroviamo. Saluto il presidente Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, vicenda vecchia, dicevamo, ma anche recente, perché è successo ad un vostro socio di ricevere una richiesta di pagamento, un avviso di accertamento, giusto? Sì, è successo a un socio qualche giorno fa, ma sicuramente a nostro avviso ci sono tutti i margini per potersi preoccupare che accadrà a molte altre persone nei prossimi giorni, di cui ha ricevuto questa persona una cartella di Equitalia sollecitando il pagamento di un bollo che qualche anno fa non risultava pagato in virtù di un incentivo che c'era appunto qualche anno fa per l'acquisto di auto ecologiche che non inquinavano, e questi incentivi prevedevano in sostanza l'esenzione del bollo di 3 anni. Sono delle pubblicità che normalmente poi le case automobilistiche fanno, ti dicono bollo pagato per 1, 2, 3, 5 anni. E quindi cosa è successo? Che lui è caduto dalle nuvole in qualche modo, perché pensava di non dover pagare almeno i bolli di quell'incentivo, poi avrà cominciato a pagarli regolarmente, ma Equitalia, di conseguenza la regione, perché poi la regione che riscuote il bollo auto, gli hanno chiesto i soldi. Certo, anche perché l'incentivo prevedeva che tu per 3 anni non pagassi il bollo dell'auto. Certamente oggi, ricevendo il sollecito di Equitalia con la somma maggiorata di tutti gli oneri e accessori vari, il socio si è rivolto nuovamente all'Adico denunciando appunto questa ingiustizia, ma anche e soprattutto rimarcando quella che è una posizione che l'Adico ha assunto nei confronti della regione, di quale l'ha diffidata e sta aspettando ancora chiarezza, non solo riguardo a questa vicenda di cui il nostro socio, come molti altri, si è interessato, ma anche quella famosa e nota a tutti per faccende di cronaca dell'anno scorso, riferita ai bolli del 2008, in cui la regione invitava le persone a pagare o a sanare la propria posizione e il bollo dell'automobile, e di cui è culminata anche con l'arresto di alcuni dirigenti, ma che di fatto ancora sostanzialmente non si è conclusa, e i soci ad oggi non hanno ricevuto ancora delle risposte alle diffide che l'Adico comunque continua a tenere aperte nei confronti dell'ente. Guarda, sono andato a scavare nell'archivio, ne abbiamo parlato la prima volta a giugno del 2012, quindi già 2 anni fa c'era questo problema. Sì, nell'aprile del 2012, in quel periodo lì, praticamente la regione, una società, una concessionaria detta la riscossione, ha cominciato a mandare delle cartelle delle persone per pagare dei bolli o regolarizzare la posizione e la scadenza dei bolli che erano stati effettuati ad aprile anziché a dicembre, riferiti al 2008, quindi oltre i termini di prescrizione che sono di 3 anni, e malgrado noi sostenevamo l'anomalia di questa riscossione e invocavamo la prescrizione di questi termini, hanno voluto andare avanti, di cui poi ha avuto questi risvolti giudiziari, ma che comunque, al di là di quelli che sono poi stati gli aspetti di cronaca che tutti hanno avuto modo di leggere, dove qualcuno ha finito anche dietro le sbarre, certamente oggi ci sono anche ancora moltissime posizioni aperte di cui l'Adico sta ancora aspettando risposta, e posizioni di cui comunque noi abbiamo e stiamo ancora difendendo i nostri soci, ritenendo appunto questo provvedimento nel loro riguardi ingiusto, in quanto attivato oltre i termini previsti dalla legge e quindi prescritto. A gennaio, e sempre scavando negli archivi, a gennaio di quest'anno avevamo detto parte l'operazione sanatoria per le cartelle che riguarderà i tributi erariali ma anche il bollo dell'auto, e lo aveva annunciato la stessa Equitalia, quindi la vicenda da cui siamo partiti di questo socio è al di fuori di questa finestra temporale. Sì, la vicenda del socio ha messo alla luce quella che è una vicenda che non si è ancora conclusa, perché se il socio si trova vittima di Equitalia in virtù di un'esenzione che ha diritto e ne ha beneficiato negli anni trascorsi, oggi cogliamo l'occasione per riproporre una vicenda che è rimasta comunque aperta, perché sugli archivi storici troviamo tutti quelli che sono stati gli sviluppi di questa vicenda, ma di fatto non troviamo quella che è la conclusione di cui noi stiamo invocando da mesi. E approfitteremo appunto di questa vicenda del socio proprio per riprenderla, ma anche sollecitare la regione a chiuderla, perché qua c'era veramente dell'incredibile, soprattutto in virtù di quelli che appunto erano anche i termini che noi invocavamo superati rispetto a quelli ai quali tu ti puoi rivolgere e chiedere dei soldi, soprattutto anche appunto per effetto di questa poca chiarezza che c'è stato tra il registro automobilistico e gli archivi della regione, e che ha visto come unico utente danneggiato solamente il consumatore. Questo socio non doveva pagare perché appunto aveva gli incentivi ecologici per l'automobile che aveva comprato, ma è già successo di persone che hanno effettivamente pagato regolarmente ogni 12 mesi, come si fa, e si sono viste comunque arrivare le cartelle esattoriali. Ah, ti permetto, Mirko, che tutti i casi delle persone che si sono rivolte all'Adico sono casi di persone che hanno sempre pagato il bollo, ma che qualcuno un bel giorno la mattina ha stabilito che tu il bollo non dovevi pagarlo da aprile a dicembre, quando avevi acquistato l'auto, ma da dicembre a dicembre. Quindi si tratta solamente di, come hanno detto chi ha ritenuto anomala questa vicenda, regolarizzare quella che doveva essere la data di scadenza naturale rispetto a quella che è una data di cui anche nei mezzi, negli strumenti di pagamento invece veniva fuori in automatico. Quindi una vicenda che vede come protagonista sempre il povero automobilista o la povera famiglia di fronte a delle istituzioni che tutto possono essere tranne che chiare, e soprattutto non certamente dalla parte del cittadino. Ed oggi chi che si è trovato in quella situazione, certamente noi come Adico l'abbiamo invitato ed aiutato a fare dei ravvedimenti e mettersi in regola rispetto a quella che era la scadenza, però anche contestando quelle che sono le ingiustizie di richieste di pagamento che abbiamo ritenuto prescritte per i termini di legge. E specificamente per questa vicenda non c'è conclusione ancora, c'è una pratica ancora aperta, quella diciamo di questo socio. Sì, la situazione di questo socio che noi comunque stiamo gestendo e comunque ancora vogliamo portare avanti, perché riteniamo che il socio abbia ragione, certamente mette alla luce come anche tutte le precedenti posizioni sostanzialmente non sono concluse, nel senso noi abbiamo diffidato la regione in questo modo di voler richiedere il pagamento dicendo che nulla era dovuto, però alla diffida e alle ragioni e ai contenuti a cui l'Adico ha portato avanti le ragioni delle persone e nostre, sostanzialmente non abbiamo ottenuto nessuna risposta, anche se è vero che le persone comunque non hanno pagato. Ci piaceva pensare di avere due righe scritte che poteva mettere fine a questa situazione, anche perché oggi parliamo di una vicenda del 2008, ma non vorremmo domani parlare di una vicenda del 2009 o del 2010, cioè la necessità è proprio quella di fare chiarezza. Ed è quello che auspichiamo, ringraziando per il lavoro l'Adico e tutti il suo staff legale e amministrativo. La settimana prossima altri due argomenti da affrontare e snocciolare insieme. Grazie a Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, con l'augurio che il tuo contributo possa anche aiutarci a far giungere le nostre dimostranze a chi insomma di questa cosa dovrebbe occuparsi nel proprio lavoro. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.